Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Andrea seguitò a discendere lentamente le scale che conducevano all'ultima terrazza. In quel mattino di settembre l'anima gli si dilatava col respiro. Andrea discendeva di tratto in tratto soffermandosi. Il pensiero che Donna Maria fosse rimasta sulla loggia a guardarlo gli dava un turbamento indefinito. Gli metteva nel petto un palpito forte. Quasi l'intimidiva come se fosse un giovinetto in sul primo amore. Provava una beatitudine ineffabile a respirare quella calda e limpida atmosfera ove respirava anch'ella, ove immergevasi anche il corpo di lei. Un'onda immensa di tenerezza gli sgorgava dal cuore, spargendosi sugli alberi, sulle pietre, sul mare, come su esseri amici e consapevoli. Egli era spinto come da un bisogno di adorazione sommessa, umile e pura, come da un bisogno di piegare i ginocchi e di congiungere le mani e di offerire quell'affetto vago e muto che egli non sapeva qual fosse. Dunque, l'amo, si chiese, e non osò di guardar dentro e di riflettere, poiché temeva che quell'incanto delicato si dileguasse e si disperdesse come un sogno d'un'alba. L'amo, ed ella che pensa? E se la vien sola le dirò io che l'amo? Godeva interrogarsi medesimo e non rispondere, e interrompere la risposta del cuore con una nuova domanda e prolungare quella fluttuazione tormentosa e deliziosa un tempo. No, io non le dirò che l'amo. Ella è sopra tutte le altre. Si volse e vide ancora in sommo nella loggia, nel sole, la forma di lei indistinta. Ella forse l'aveva seguito con gli occhi e col pensiero fin laggiù, assiduamente. Per una curiosità infantile egli pronunziò a voce chiara il nome sulla terrazza solitaria. Lo ripeté due o tre volte ascoltandosi. Maria! Maria! Nessuna parola giammai, nessun nome. Era gli parso più soave, più melodioso, più carezzevole. E pensò che sarebbe stato felice se la gli avesse permesso di chiamarla semplicemente Maria, come una sorella. Quella creatura così spirituale ed eletta gli ispirava un senso di devozione e di sommissione altissimo. Già da 10 giorni ella viveva a Schifanoia, e in quei 10 giorni come interamente l'aveva ella conquistato. Le loro conversazioni sulle terrazze o sui sedili sparsi all'ombra o lungo i viali fiancheggiati di rosai duravano talvolta ore ed ore, mentre Delfina correva come una gazzelletta tra gli avvolgimenti dell'agrumeto. Ella aveva nel conversare una fluidità mirabile, profondeva un tesoro d'osservazioni delicate e penetranti, rivelavasi talvolta con un candore pieno di grazia. In proposito dei suoi viaggi, talvolta con una sola frase pittoresca, suscitava in Andrea larghe visioni di paesi e di mari lontani. Ed egli poneva un'assidua cura nel mostrare a lei il suo valore, la larghezza della sua cultura, la raffinatezza della sua educazione, la squisitezza della sua sensibilità, e un orgoglio enorme gli sollevò tutto l'essere quando ella disse con accento di verità, dopo la lettura della favola d'Ermafrodito: «Nessuna musica mi ha inebriata come questo poema. Certi versi mi perseguitano senza tregua, e mi perseguiteranno per lunghissimo tempo, forse. Tanto sono intensi». Ma un'ansietà lo stringeva, come più i minuti fuggivano. Ed egli volgevasi tutti i minuti a vedere se in sommo della scala, tra le colonne del vestibolo, apparisse una forma femminile. Era forse quello un ritrovo d'amore? Veniva forse quella donna in quel luogo a un colloquio segreto? Immaginava ella di lui quell'ansietà? Eccola, il cuore gli disse. Ed era. Era sola. Scendeva pianamente. Sulla prima terrazza presso una delle fontane si soffermò. Andrea la seguiva con gli occhi, provando ad ogni moto, ad ogni passo, ad ogni attitudine di lei una trepidazione, come se il moto, il passo, l'attitudine avessero un significato, fossero un linguaggio. Aspettiamo Delfina, disse Donna Maria. Poi andremo fino al cancello della Cibele. Volete? Ella aveva per il convalescente riguardi assai gentili. Andrea era ancora molto pallido e molto scarno, e gli occhi gli si erano straordinariamente ingranditi in quella magrezza, e l'espressione sensuale della bocca, un po' tumida, faceva uno strano e attirante contrasto con la parte superiore del viso. «Sì», rispose, «anzi, vi son grato». Poi, dopo un poco di esitazione, «mi permettete qualche silenzio stamani?» «Perché mi chiedete questo?» «Mi pare di non aver la voce e di non saper dire nulla, ma i silenzi certe volte possono essere gravi, infastidire e anche turbare se si prolungano. Perciò vi chiedo se mi permettete di tacere durante il cammino ed ascoltarvi. Allora taceremo insieme», disse ella con un sorriso tenue e guardò in alto verso la villa con un'impazienza visibile. «Ecco Delfina! La vedete?» La bimba discendeva rapidamente, seguita dalla sua governante. Invisibile giù per le scale, ripariva correndo. I capelli disciolti le ondeggiavano per le spalle nel vento della corsa, sotto una larga paglia coronata di papaveri. Quando fu all'ultimo gradino, aperse le braccia verso la madre e la baciò tante volte sulle guance. Poi disse: «Buongiorno, Andrea». E gli porse la fronte con un atto infantile d'adorabile grazia. «Amore», sussurrò la madre guardandola con uno sguardo indescrivibile, nel quale esalavasi tutta la tenerezza dell'anima, occupata da quell'unico affetto. E Andrea ebbe dalla parola, dallo sguardo, dall'espressione, dalla carezza, una specie di gelosia, una specie di scoramento, come se egli sentisse l'anima di lei allontanarsi, sfuggirgli per sempre, divenire inaccessibile. Erano quasi alla fine del sentiere. Certe erme aderivano a certi fusti, così da formar con essi quasi un sol tronco, arboreo e lapideo, e i frutti numerosi, taluni già tutti d'oro, altri maculati d'oro e di verde, altri tutti verdi, pendevano in sulle teste dei termini, che parevano custodire alberi intatti e intangibili, esserne i geni tutelari. Perché Andrea fu assalito da una inquietudine e da un'ansietà improvvise, avvicinandosi al luogo dove 2 settimane innanzi aveva scritto i sonetti di liberazione? Perché lottò fra il timore e la speranza che ella li scoprisse e li leggesse? Perché alcuni di quei versi gli tornarono alla memoria distaccati dagli altri, come rappresentando il suo sentimento presente, la sua aspirazione presente, il nuovo sogno che gli chiudeva nel cuore? O voi che fate tutti i venti a ulire, che avete in signoria tutte le porte, io metto a vostri piedi la mia sorte. Madonna, nel vogliate consentire. «Com'è bello qui!» esclamò Donna Maria entrando nel dominio dell'erma qua di fronte, nel paradiso degli acanti. «Guardate, guardate Delfina!» E la soggiunse con nella voce la commozione di chi vede una cosa di bellezza. Delfina aveva intrecciata ingegnosamente con ramoscelli d'arancio fioriti una ghirlanda, e per un'improvvisa fantasia infantile ora voleva inghirlandarne la divinità di pietra. Ma poiché non giungeva al sommo, si sforzava di riuscire nell'impresa alzandosi sulle punte dei piedi, sollevando il braccio, allungandosi come più poteva, e la sua forma gracile, elegante e viva faceva contrasto con la forma rigida, quadrata e solenne del simulacro, come uno stelo di giglio a piede una quercia. Ogni sforzo era vano. Allora, sorridendo, le venne in soccorso la madre, le prese dalle mani la ghirlanda e la posò sulle 4 fronti pensose. Involontariamente il suo sguardo cadde sulle iscrizioni. «Chi ha scritto qui? Voi? domandò ad Andrea sorpresa e lieta. «Sì, è la vostra scrittura». E subito si mise in ginocchio sull'erba, a leggere, curiosa, quasi avida. Per imitazione Delfina si chinò dietro la madre, cingendole il collo. La madre mormorava le rime, e quelle due figure muliebri, chine a piè dell'alta pietra ghirlandata nella dubbia luce fra gli acanti simbolici, facevano un componimento di linee e di colori tanto armonioso che il poeta per qualche istante restò sotto il dominio unico del godimento estetico e della pura ammirazione. Ma ancora l'oscura gelosia lo punse. Quella creatura sottile, così avviticchiata alla madre, così intimamente confusa con l'anima di lei, gli parve una nemica. Egli non era geloso del marito ed era geloso della figlia. Egli voleva possedere non il corpo, ma l'anima di quella donna, e possedere l'anima intera, con tutte le tenerezze, con tutte le gioie, con tutti i timori, con tutte le angosce, con tutti i sogni, con tutta quanta, insomma, la vita dell'anima, e poter dire: «Io sono la vita della sua vita». La figlia, invece, aveva quel possesso incontrastato, assoluto, continuo. Anche ora, la figlia non toglieva a lui qualche cosa. Ella, infatti, per gioco, voleva costringere la madre a restare in ginocchio. Le si abbandonava sopra la repugnia. Quando finalmente Donna Maria riuscì a liberarsi dalla dolce tirannella, gli disse, leggendogli sul volto la contrarietà: «Perdonatemi, Andrea. Delfina certe volte ha di queste follie, e perdonatela in compenso del suo augurio inconsapevole, perché ella dianzi ha avuta l'ispirazione di mettere una corona nuziale sulla vostra poesia, che canta una comunione nuziale». «A Delfina e a voi, grazie», rispose Andrea, che si sentiva chiamar da lei per la prima volta non col titolo gentilizio, ma col semplice nome. Quella familiarità inaspettata e le parole buone gli rimisero nell'animo la confidenza. Delfina s'era allontanata per uno dei viali correndo. «Questi versi dunque sono un documento spirituale», seguitò Donna Maria. «Me li darete, perché io li conservi». Egli voleva dirle: «Vengono a voi, oggi, naturalmente. Sono vostri, parlano di voi, pregano voi». Ma disse invece semplicemente: «Ve li darò». Ripresero il cammino verso la Cibele. Prima d'uscir dal dominio, Donna Maria si rivolse all'erma, come se avesse udito un richiamo, e la sua fronte pareva piena di pensiero. Andrea le chiese con umiltà: «Che pensate?» Ella rispose: «Penso a voi». «Che pensate di me?» «Penso alla vostra vita di un tempo che io non conosco». «Avete molto sofferto?» «Ho molto peccato». «E amato anche molto?» «Non so. Forse l'amore non è quale io l'ho provato. Forse io debbo ancora amare, non so veramente». Ella tacque. Camminarono l'uno accanto all'altra per un tratto. A destra del sentiero si levavano alti lauri, interrotti da un cipresso a intervalli eguali, e il mare or sì or no rideva in fondo tra i fogliami leggerissimi, azzurro come il fiore del lino. A sinistra, contro il rialto, era una specie di parete, simile alla spalliera di un lunghissimo sedile di pietra, portante in cima, ripetuto per tutta la lunghezza, lo scudo degli Ateleta e un alerione, alterni. A ciascuno scudo e a ciascuno alerione corrispondeva più sotto una maschera scolpita, dalla cui bocca usciva una cannella d'acqua, versandosi nelle vasche sottostanti, ornate di storie mitologiche in basso rilievo. Le bocche dovevano essere 100, perché il viale si chiamava delle 100 fontane, ma alcune non versavano più, chiuse dal tempo. Altre versavano appena, e le cannelle superstiti facevano un canto roco e soave che correva sul rumore del mare, come una melodia sull'accompagnamento. «Udite?» chiese Donna Maria soffermandosi, tendendo l'orecchio, presa all'incanto di quei suoni. «La musica dell'acqua amara e dell'acqua dolce. Maria!» mormorò il convalescente che aveva il cuore gonfio di tenerezza. «Maria, Maria!» Egli provava un'indicibile voluttà a mescere il nome di lei in quella musica delle acque. Ella premé l'indice sulla bocca per indicargli di tacere senza guardarlo. «Perdonatemi», e gli disse sopraffatto dalla commozione, «ma io non reggo più. È l'anima mia che vi chiama». Una strana eccitazione sentimentale l'aveva vinto. Tutte le sommità liriche del suo spirito s'erano accese e fiammeggiavano. L'ora, la luce, il luogo, tutte le cose intorno gli suggerivano l'amore. Dagli estremi limiti del mare, insino all'umile capelvenere delle fonti, per lui si disegnava un sol circolo magico ed egli sentiva che il centro era quella donna. «Voi non saprete mai», soggiunse Andrea con la voce sommessa, quasi temendo di offenderla, «non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra». Ella divenne anche più pallida, come se tutto il sangue delle vene le si fosse raccolto sul cuore. Non disse nulla, evitò di guardarlo. «Mi perdonate», osò dire Andrea, «io non volevo offendervi. Anzi, vedendovi così in alto, così lontana da me, così pura, io pensavo se non che avrei mai parlato del mio segreto, che non vi avrei mai chiesto un consenso, né mai vi avrei attraversato il cammino. Da che vi ho conosciuta ho molto sognato di voi, di giorno e di notte, ma senza una speranza e senza un fine. Io so che voi non mi amate, che non potete amarmi, eppure credetemi, io rinunzierei a tutte le promesse della vita per vivere in una piccola parte del vostro cuore». Ella seguitava a camminare, lentamente, sotto i brillanti alberi che le stendevano in sul capo le ciocche pendule, i bianchi e rose e i grappoli delicati. «Credetemi, Maria, credetemi! Se ora mi dicessero di abbandonare ogni vanità ed ogni orgoglio, ogni desiderio ed ambizione, qualunque più caro ricordo del passato, qualunque più dolce lusinga del futuro, e di vivere unicamente in voi e per voi, senza domani, senza ieri, senza alcun altro legame, senza alcun'altra preferenza, fuori del mondo, interamente perduto nel vostro essere, per sempre, fino alla morte. Io non esiterei, credetemi». Ella seguitava a camminare, lentamente, col capo chino, pallidissima e esangue, verso un sedile che stava sul limite del bosco. Come vi giunse, vi si piegò a sedere, con una specie di abbandono in silenzio. E Andrea le si mise dappresso, ancora parlandole. «Io amo tutte quelle cose che voi amate. Voi possedete tutte quelle cose che io cerco. La pietà che mi venisse da voi mi sarebbe più cara della passione di qualunque altra. La vostra mano sul mio cuore farebbe, sento, germinare una seconda giovinezza, assai più pura della prima, assai più forte. Quell'eterno ondeggiamento che è la mia vita interiore si riposerebbe in voi, troverebbe in voi la calma e la sicurezza. Il mio spirito irrequieto e scontento, travagliato da attrazioni e da repulsioni e da gusti e da disgusti, in continua guerra, eternamente, irrimediabilmente solo, troverebbe nel vostro un rifugio contro il dubbio che contamina ogni idealità e abbatte ogni volere e scema ogni forza. Altri sono più felici, ma io non so se ci sia stato al mondo uomo men felice di me». E la taceva, col capo eretto, immobile, con il busto sollevato, con le mani posate sulle ginocchia, nell'attitudine di chi sia tenuto desto da un fiero sforzo di coraggio contro un languor che li invada. Ma la sua bocca, l'espressione della sua bocca, invano serrata con violenza, tradiva una sorta di dolorosa voluttà.